Pensione Gian Maria, pensione Gian Maria, dici sì, sì, Natali. Sì, già sono qui. Sì, andiamo, e andiamo. Certo, devo il 22 devo salire da al Conti a farmi qualcosa. A farmi la Recci. Ah, cappa, lì te lo fanno. Sì, al Conti me lo fanno, c'ho l'appuntamento al Conti. Alle 9:05 devo essere lì. E manco male che l'hai avuto l'appuntamento. Se no ti disegni un nuovo puccio, ma Razzucci. Aspetta, da aprile mi pare che, no, dai primi di maggio. Sono salito su a Lina. In via Tempio. E me l'hanno dato lì l'appuntamento. Dice a luglio, il 22 luglio lo vuole alle 9:05. Se non ce n'è altro, me la vendere la riera, ho visto che andate. Ecco, lo conosco io che sono ambulatorio, lo fanno in onda. Allora, vabbè, prendo quello del Conti. Ma finché mi vanno in duccio? E infatti, Gesù Cristo mio, grazie. E a me addirittura cosa mi è capitato? Lui è andato all'endocrinologo, dovevo andare, no? Ho prenotato, la disse che andato e dice non risultava la prenotazione, mi so che ho dovuto andare, te lo immagina, per la visita annullata, prenotata da Rugup. L'avevano cancellata, l'avevano allora. Ecco cos'è, l'avevano cancellata. Non lo buono, fa una cosa del genere. Eppure un cazzo non risultava, cazzo. Hanno una barzelletta, pari. Eppure mi è successo. Già nel sabbia di Matteo io ne cancellata, ecco cos'è. Che non vogliamo fare nulla. Ma era giusto. E se lo dovuto andare a farmi la visita, a te niente di manco. Carità, cazzo. Tutti rigorosi, non intendono. Sì, sono pari vero, non pari. No, io tutte le visite che mi hanno cosa ho sempre fatte. Anche quelle dell'oculista, l'INAM, l'ho fatta lo stesso. Sì, a settembre mi avranno a operare. Ora. Un altro intervento di Bubacca, sabato, messo male so. Sempre lì al congio. Ma dove te l'hanno fatta? Ma se cambiata, mi devono mettere in lista per mezzo settembre, dice che ci farà questo intervento. Che vuoi che te dica? Andiamo per... Lasciamo pochi bene tutti quanti, bambù. Non ci interessa un poco di niente, c'è. Non c'è un po' qui, no. Oh, Giulia. Non fare vero. Chi su Gianni, lo Mattezzi, va a problemi all'Anchi. L'hanno operata all'Anchi, no. E deve essere va a problemi di... A dolori era oggi. Stavo parlando con lui io. Poco fa. Cazzo, no. Non pare vero, guarda. Vuol dire che la coagulazione del sangue deve essere... è andata alle gambe che era gonfiata, avviso mio. Intendere un dolore. Era dolore, poveraccio, cazzo. Io lo capisco perché gli ho passati questi dolori qua e lo so che sono tremendi, cazzo. Avevamo i pari duro, ma giubilata ancora, una pastiglia che non potevi che ha. Io stamattina ero all'ospedale, guarda, ti giuro che sono arrivato da un ganso. Ah, durori, ma durori voglimi. Quando c'hai il dolore voce, secondo la pastiglia che no, vuoi manco pigliare. Io per esempio... Secondo che pastigliai non li posso pigliare. Pure io uso così, a chi piglio la cardiaspirina. E non ne avevo antidolorifico compatibile. Me l'hanno ordinato oggi, meno male. E questo pare che funzioni. Adesso dolori non ne ho. Cazzo, ma c'è Manzano. Ui. La dottoressa a me, per il naso mi ha dovuto dare 4 spray da mettere nel naso per 15 giorni. Ma che io sempre gulenni. Certo, sono più che colare non mi va via. Non ha su varia gatto un coso. E poi via un raffreddore. Sì, già lo so, e quindi mi dire. Cazzo, Salvatore, siamo bucinari, cazzo. Prima abbiamo fatto gli spavaldi, cazzo, della valiente e fendi. Ma invece io, cazzo, tutti i acciacchi viravamo noi. Dai, mamma. Io, tutti gli acciacchi si sono attaccati. E Gio Maria, ieri lo stesso non siete entrati. Perché io sono passato sul 23 e non c'era nessuno. Ah, Gio Maria, boh, è da ieri che no, ieri non c'ero. Ero su alla clinica ed era nata una nipotina piccolina, è nata, purtroppo. Ma non c'ero, ecco cosa è. Oggi non so pure, se magari è entrata a chiamare, no. Ha chiuso. Chiedeva se io non so se pure hanno in cracca. E si era occupato, doveva fare la gente in casa. E poi pure sì. Certo. Ha già appena... Ma ora... Io devo darsi arrugginto. Che c'è arrugginto? Io sono appena arrugginto, so, come ne intendo. Ma... Vabbè dai, Salvatore, io devo mangiare e al limite ci sentiamo alle prossime. Ti ringrazio per le quattro chiacchiere che vuoi fare. Ci sentiamo alle prossime, allora dai, me la chiudo io. Ok Natalia, ci sentiamo alle prossime. Grazie della chiacchierata che abbiamo fatto. Ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo. Ciao Natalia, stammi bene. Ciao.